Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, come sempre, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Dico subito, visto che già ce lo state chiedendo, che domani la borsa sarà chiusa. Noi invece saremo in diretta, come sempre, regolarmente, fino alle 18.30. Lunedì invece borsa chiusa e programma non in diretta, anzi non ci sarà proprio Focus Economia, ci risentiremo poi martedì. Quindi queste le note tecniche, vediamo come si sta per chiudere l'ultima seduta a questo punto della settimana. Perché? Perché da questo punto di vista i mercati oggi, il ragionamento vale soprattutto per Milano, sono tutti ben impostati. Milano guadagna l'1,3%, Parigi l'1,2%, Francoforte l'1%, Londra più 0,80%, l'America più 0,60%. L'euro continua una lenta ma appunto costante ripresa nei confronti del dollaro a 1,3540 e anche nei confronti del franco svizzero siamo a 1,416. Come dire, appunto, l'accordo per la Grecia sta sortendo i suoi effetti. Tutti ben impostati i titoli tranne Ansaldo STS, che però è interessatute, che aggiorna i record storici di prezzo, sempre a 15,1 euro per azione, meno 0,3%. E poi negativa anche Pirelli, meno 2,20, che molto aveva corso. Di nuovo in calo Campari, invece meno 1,70%, pesano ancora i conti, 7,78 euro. Chi va bene? L'Automatica più 3,5, CIR più 3,20, Azimut più 3, Buzzunicen più 2,80, Saipem più 2,70, Mediolanum più 2,40, come Prismian e ST Microelectronics più 2,2 è il rialzo di Tenaris e di Bulgari, l'1,90 è il rialzo di Exor e Unicredit. E ancora bene Autogrill più 1,90 anch'essa, Italcementi più 1,7%, Fiat più 1,2%, Atlantia 1,4%, Intese Popolare Milano 1,6%, ancora Finmeccanica 1,1% di rialzo, Telecom più 0,90% come Eni e Mediobanca. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, partiremo con l'accordo presentato questa mattina tra Confindustria e Barclays, il gruppo bancario britannico, Barclays Italia. Un accordo importante per creare una rete, un progetto di rating, ossia la Confindustria si propone di aiutare gli associati per dare una specie di marchio di affidabilità, una ISO si potrebbe dire in altro gergo, che faciliti il rapporto delle imprese associate con le banche, proprio in un momento particolarmente difficile per quello che riguarda l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Di questo stiamo parlando, ed ecco il modello di rating bancario, frutto appunto della collaborazione tra Confindustria e Barclays Italia. Praticamente la banca valuterà le varie imprese, darà un voto, valuterà anche i manager, la governance interna, quindi insomma com'è strutturato il rapporto di potere dentro l'impresa, e tutti questi fattori e la partecipazione ad una rete di imprese, fattori che potranno portare a un voto migliore, quindi a una maggior facilità nell'accesso al credito. Ancora, per quello che riguarda i temi di oggi, ci occuperemo anche della borsa italiana, lo faremo più avanti. Un passaggio di consegna oggi annunciato anche dal Sole 24 Ore: dopo 12 anni lascia il presidente Capuano, viene nominato presidente della borsa italiana Raffaele Gerusalmi, e vedremo anche di capire quali sono i progetti futuri della borsa italiana dopo la fusione con la borsa di Londra. E ancora, per quello che riguarda i temi di oggi, mercato auto, alle 18 i dati sulle immatricolazioni auto italiane, e ancora la vicenda Unicredit. Oggi infatti il comitato strategico ha deciso che la banca unica, il progetto di Profumo, si farà entro il 2010. Cercheremo di capire anche con quali modifiche, visto che le fondazioni bancarie dentro Unicredit, e nel caso specifico Verona e Torino, avevano, per essere buoni, sollevato più di un dubbio sul progetto, chiedevano insomma che non scomparissero completamente i marchi territoriali. Ne parleremo più avanti. Su questo si è arrivati evidentemente ad un accordo. Vedo anche che molti ci scrivono sulle dichiarazioni che Il ministro e neopresidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ci ha fatto ieri in diretta Focus Economia proprio sul rapporto con Unicredit e con Profumo. Lo faremo riascoltare magari. Ha detto che non lui stima Profumo, il problema non è Unicredit, è in generale il rapporto banche con il territorio, in questo caso il Veneto. Ultimo tema che affronteremo nella seconda ora del programma riguarderà invece le banche, ma i bonus. Sapete che è un nostro chiodo fisso. Insomma, sono usciti dati su quanto stanno guadagnando non solo i banchieri a livello mondiale, ma anche i manager dei fondi altamente speculativi, hedge fund. Insomma, fa spavento. Comunque, David Tepper, Appaloosa Management, 4 miliardi di dollari guadagnati nel 2009. George Soros, 3 miliardi e 3 di guadagno. James Simons, 2 miliardi e mezzo. John Paulson, 2 miliardi e 3. Steve Cohen, 1 miliardo e 4. Devo dire che Soros, Paulson e Cohen sono i tre dei quattro che si riunirono in questo splendido grattacielo di Manhattan per decidere che bisognava cacciare la Grecia dall'euro, speculare contro l'euro, e poi abbiamo visto che cosa è successo sui mercati dei tassi di interesse e soprattutto nei mercati valutari, questi guadagni dei top manager dei fondi altamente speculativi, mentre in Germania parte una legge molto anche severa sulle banche. Si dice: onde evitare che possa capitare quello che è successo nel 2008, siete obbligate a mettere soldi da parte. Com'è che vi obblighiamo? Tassandovi 1,2 miliardi all'anno, che servirà appunto come garanzia in caso poi le banche si prendano, come hanno fatto, rischi più forti di quelli che sono in grado di sostenere, e spesso anche non conoscendo completamente i rischi che andavano a sottoscrivere. Torneremo quindi sul tema delle regole per il mondo della finanza e del mondo bancario, anche perché oggi Commerzbank in Germania, in qualche modo rispondendo anche al governo tedesco, ha detto: beh, per il 2009 abbiamo ottenuto sotto controllo i bonus, ma dal 2010 ripartiamo con le politiche di bonus e premi per i nostri manager, come fatto precedentemente. La crisi per noi è finita, e beati loro. 349-238-6666 per i vostri sms. Confermo che sto parlando di miliardi nei guadagni dei top manager di fondi speculativi, appunto Soros 3 miliardi e 3, David Tepper 4 miliardi di dollari nel 2009, praticamente una finanziaria di un paese, ma anche di medie dimensioni. Allora, le notizie in breve. Notizie in breve che riguardano alcuni, come sempre, dati internazionali. Partiamo dal petrolio, sempre forte, 84,8. Già ieri ce ne siamo accorti con i dati sull'inflazione europea e italiana a marzo. L'effetto petrolio si trasferisce su benzina e gasolio, sui trasporti, e l'inflazione torna a crescere, comunque a $84,81. La Toyota ha segnato un balzo delle vendite di veicoli a marzo, che sono salite nel Giappone del 50%, nonostante la crisi seguita al richiamo di oltre 9 milioni, scusatemi, di auto nel mondo. Una crisi che appunto è scoppiata tra fine gennaio e metà febbraio. Buonissime comunque le vendite. Nel periodo 2009-2010 più 10% per le vendite Toyota, che è il primo rialzo in 7 anni in Giappone. Molto buoni i dati di immatricolazione auto in Francia, più 18%, marche straniere più 27%, segnano il passo le marche francesi, e noi con un po' di sciovinismo siamo contenti, lo dico con massimo rispetto. Il gruppo Fiat ha fatto registrare un aumento delle immatricolazioni del 14%, 15% la sola marca Fiat, più basse appunto le immatricolazioni di auto francesi, più 11%. Ancora, alcuni contestano la mia dichiarazione sull'euro e franco svizzero. Allora, l'euro ha toccato un minimo in mattinata sul franco svizzero alle 9:30-10 di mattina, è arrivato 1,41,86. Abbiamo detto che sta recuperando a 1,41,57. Chiaro che il recupero più forte è quello sul dollaro, dove siamo a 1,35,40. Con franco svizzero siamo a 1,41,50 adesso. Ancora, la spesa edilizia negli Stati Uniti è precipitata ai minimi da 7 anni a questa parte. Le previsioni degli analisti erano di un calo dell'1%, invece ha fatto meno 1,3%. Ancora per quello che riguarda gli Stati Uniti, i licenziamenti programmati dalle aziende americane il mese scorso sono diminuiti, per fortuna, del 55%, cioè 67.000 licenziamenti contro 150.000 licenziamenti nel febbraio del 2000, nel marzo del 2009. E nonostante le richieste di sussidi di disoccupazione in America scendono a 439.000, il segretario del Tesoro, il ministro dell'economia americano Timothy Geithner, ha detto che la disoccupazione in America resterà alta, a un livello inaccettabile ancora per molto tempo. Andiamo avanti, l'Italia, le retribuzioni a febbraio più 2% su base annua e poi la proposta del PD, ne parleremo magari più avanti, di un contratto unico di ingresso e salario minimo, è una proposta avanzata dagli economisti del PD e anche dagli economisti, diciamo, che non sono necessariamente dentro il PD, però prevede un contratto unico di ingresso per i precari, un salario minimo legale per tutti coloro che non hanno il contratto nazionale e anche forme di rivalutazione annuale delle retribuzioni. È una proposta che, diciamo, deriva da quella fatta da Ezio Tarantelli, alcuni di voi lo ricorderanno, un economista, l'economista ucciso dalle BR 25 anni fa. Presentata dal senatore PD Paolo Nerozzi, 47 parlamentari che l'hanno firmata, e appunto prevede il contratto unico di ingresso. Vedremo poi se si arriverà a qualche formulazione, anche a qualche accordo tra maggioranza e opposizione. Ancora, ultima notizia di Unicredit, abbiamo detto, comitato strategico ha confermato la banca unica nel 2010, c'è il nodo sulla figura del country chairman, cioè quello che dovrebbe essere lo snodo tra la banca universale e poi la parte più locale, il territorio, quello che gusta molto cuore a Luca Zaia, ma anche immagino al presidente della regione Piemonte Cota. Vedo che alcuni dicono, ma insomma, gli hedge fund non hanno mica avuto soldi dallo Stato, chi se ne frega dei loro stipendi. Avete ragione, in senso stretto sono più scandalosi i bonus dei manager bancari americani di banche salvate dalla Casa Bianca, penso a Citigroup, penso a Goldman Sachs, Merrill Lynch e quant'altro. Detto questo, visto che si parla sempre di speculazione, di questi fondi altamente speculativi, ecco, era giusto anche ricordare quali sono gli stipendi di chi specula contro l'euro, contro la Grecia. Insomma, specula in questo momento verso il peggio, non verso il meglio. Ma andiamo adesso sulle cose concrete, non che questi stipendi non siano concreti, soprattutto per chi li riceve, ma accordo tra Confindustria e Barclays Italia per arrivare a un progetto di rating. Allora, il voto è una cosa importante, c'è un problema storico, strutturale, le piccole imprese italiane, non parlo solo di quelle associate in Confindustria, penso anche alle imprese dell'artigianato e del commercio, sono così piccole che spesso risultano opache nei confronti di una banca, per cui i bilanci non sempre sono così trasparenti, la capitalizzazione spesso lascia desiderare, è troppo bassa, e allora cosa succede? Che quando vanno a chiedere un prestito bancario si beccano un brutto voto, quindi i prestiti, e le banche hanno l'oggettiva giustificazione nel dire, ma insomma, con questi numeri noi non possiamo, non hai un voto tale da permettere a noi di aprire i cordoni della borsa. Questo accordo cerca di superare questo, il problema delle piccole, piccolissime imprese nei confronti dei grandi gruppi bancari. Accordo appunto con Barclays in un momento particolarmente difficile. Il modello, adesso ce lo facciamo raccontare, un modello di rating, di voto bancario, di giudizio bancario, frutto appunto della collaborazione tra Confindustria e Barclays Italia, che prevede, se ho ben capito, oltre alle valutazioni classiche che già le banche fanno di natura economica e finanziaria, anche una valutazione di come è strutturata l'azienda. Qui si entra in un campo più qualitativo, la cosiddetta governance aziendale, come è strutturato, se c'è un unico proprietario che fa tutto, se ha dei figli che però hanno deleghe oppure no, come sono fatti i controlli interni, il tutto per arrivare a un giudizio migliore, non solo numerico, non solo di cifre, sulla affidabilità dell'impresa che chiede soldi in banca, anche perché se ci basassimo, ripeto, solo sulle cifre di bilancio, purtroppo qui, e questa è un'autocritica che i piccoli imprenditori devono fare, a mio avviso, purtroppo qui siamo ancora indietro, molto indietro sulla, diciamo, capacità di formulare bilanci, di avere una trasparenza che permetta poi alla banca di giudicarti in maniera corretta. Su questo, ma è anche e soprattutto sul rapporto banche e imprese, è intervenuta la Presidente Confindustria Marcegaglia, sottolineando che il tema del rapporto con il credito è ancora tuttora un tema molto delicato e strategico. Noi su questo tema della restrizione del credito avremo nei prossimi mesi alcuni momenti critici che dobbiamo gestire tutti insieme in una logica non di contrapposizione tra noi e il sistema bancario, che è una logica che porta a poco, ma in una logica invece di ragionamento comune con l'obiettivo comune di far sì che in un momento in cui c'è qualche piccolo segnale di miglioramento non manchi il credito alle imprese per poter andare avanti, poter crescere, poter investire, poter avere, come dire, un finanziamento del proprio circolante, che in un momento in cui, come ripeto, ci può essere qualche miglioramento di fatturato e poi per alcuni settori anche aumenti dei prezzi, può richiedere maggiori crediti bancari. E allora, il vicepresidente di Confindustria per le politiche territoriali di Distretti Industriali, Aldo Bonomi, al microfono della nostra Chiara Grandi, si è entrato poi nelle caratteristiche di questo nuovo modello di rating, ma ringrazio per averci aggiunto in collegamento anche la controparte, e quindi Barclays Italia, nella figura dell'amministratore delegato Vittorio De Stasio. Buonasera, dottor De Stasio. Buonasera a lei. Allora, ascoltiamo Aldo Bonomi, poi lei ci racconti anche qual è dal punto di vista bancario il vantaggio. Io spero di averlo spiegato in maniera chiara, probabilmente non precisa, il vantaggio nell'avere anche una nuova un nuovo tipo di valutazione che non sia solo basata sui parametri di bilancio classici. Sentiamo comunque il vicepresidente di Confindustria Aldo Bonomi. Per quanto riguarda Barclay, per quanto riguarda la banca, direi è un nuovo modello completamente diverso che fa la valutazione non solo per quanto riguarda la parte finanziaria e economica dell'azienda, ma anche il management e valutare le aziende che si mettono in rete. Quindi dare la possibilità di avere un rating migliore e quindi possibilità di avere più accesso al credito. In un momento particolarmente difficile come questo, credo che la nuova possibilità che è stata data da Barclays in collaborazione naturalmente con Confindustria, con l'associazione Premio Qualità Italia, si è dato uno sviluppo molto importante per le piccole e medie imprese. Oggi si parla molto anche di disoccupazione. Il modello di sviluppo basato sulle reti d'impresa può creare posti di lavoro, secondo lei? Assolutamente sì, perché il 98,5% delle imprese italiane sono piccole e medie imprese. Diventando più grandi e più potenti, possono competere con maggior successo oltre a livello nazionale, anche a livello internazionale, dando possibilità all'Italia di continuare a crescere nonostante la recessione che è in atto tuttora. Allora, dottor De Stasio, una piccola premessa, spesso lo ricordiamo, ma insomma il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti, il 98% non arriva a 50. Questo la dice lunga sui 5 milioni di imprese presenti nel paese. C'è un problema di dimensioni che viene acuito dalla crisi e quindi dal fatto che le banche tutte abbiano chiuso i cordoni nella parte più difficile 2008-2009, ma anche dal nuovo mondo che si sta disegnando, perché se tu devi esportare in Cina, in India, nell'est o in Brasile, cioè i paesi che adesso tirano, è chiaro che le dimensioni contano e la massa, diciamo, conta. Non si può chiedere alle imprese di fondersi in maniera obbligata né di, insomma, vendere in maniera obbligata. Il progetto, se ho ben capito, è a questo punto di trovare, cioè provare a far massa attraverso una rete. Ci si mette in rete e in questo modo l'unione di tanti piccoli rende il soggetto più grande. Vorrei capire dal vostro punto di vista che cosa vuol dire ragionare per reti di imprese, poi ci racconta magari come funzionerà questo nuovo rating, questo nuovo voto alle imprese. Sì, devo dire che lei ha detto bene, il problema al di là della crisi che certamente ha acuito il fatto che le imprese italiane, gli imprenditori italiani che hanno sempre dimostrato di saper stare sui mercati internazionali in maniera più che adeguata, in questa situazione dove c'è ancora una maggiore globalizzazione, una competizione più forte, ci sono mercati lontani da andare ad aggredire o concorrenti che arrivano da questi paesi, è chiaro che la dimensione la fa da padrone. Allora, almeno noi come banca internazionale, che abbiamo una vocazione a cercare di adeguarci al territorio che troviamo, in quei mercati nei quali noi crediamo e quindi nei quali vogliamo investire in maniera significativa, certamente l'Italia è uno di questi mercati, dobbiamo capire quali sono le strade per aiutare il settore, il tessuto imprenditoriale. E certamente, come diceva lei, in Italia la specificità, la capacità dei nostri imprenditori sta anche nella capacità di essere diversi gli uni dagli altri, quindi questo è un valore che va e deve essere preservato, quindi non si può pretendere giustamente che gli imprenditori si fondano, però devono competere di fatto con le grandi aziende degli altri paesi che hanno economie di scala, che possono avere tutta una serie di vantaggi date dalle grandi dimensioni. Per fare questo, che cosa si può fare? È chiaro che se noi restiamo a criteri di valutazione, ricordiamo che il rating poi in realtà è uno strumento per la banca per una migliore ottimizzazione del capitale, perché se la banca presta soldi a un'azienda che ha un rating migliore, deve impiegare meno capitale, quindi alla fine può dare maggiori finanziamenti all'economia. Allora che cosa abbiamo voluto fare? Certamente le reti sono qualcosa che sta nascendo. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa che fosse in proiezione, e secondo me non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, ma creare uno strumento di rating che tenga conto di tutti quegli elementi soft che da un bilancio sicuramente non traspaiono. Elementi soft che devono tener conto dei fornitori, dei clienti, di come è inserita un'azienda. Quindi al di là oggi anche dell'appartenenza alla rete, noi di fatto con questo modello possiamo considerare quella che è una sorta di integrazione che comunque un'impresa che vive in un distretto ha, e quindi dall'interazione con i propri fornitori, con i propri clienti, con tutto quello che sta intorno, cerchiamo questo strumento di rating può valorizzare questi elementi, quindi dare un miglioramento di quello che è un voto, che sarebbe quello che nasce da una pura valutazione economica finanziaria, e quindi consentire un accesso migliore al credito e a migliori condizioni. Allora, adesso poi darò anche qualche risposta agli ascoltatori, sia sugli i guadagni dei gestori di hedge fund, vedo che alcuni li difendono, nessuno ha detto che li abbiano fatti illegalmente, ma ci mancherebbe. E così come chi dice che dovremmo occuparci più di fisco, abbiamo fatto ieri buona parte della puntata sui dati che uscivano in diretta su quanti italiani hanno dichiarano meno di 15.000 euro l'anno, la metà, i due terzi meno di 20.000 euro l'anno, non è che possiamo sempre tornare su questo. Comunque restiamo sul tema di questo accordo, perché è chiaro che la banca non fa beneficenza, lo dico fuori da ogni ironia, e per dare un prestito, anche perché poi lei stessa deve rispondere a dei parametri, alla Banca d'Italia in generale, Basilea 2 vale anche per le banche, devono prestare soldi sulla base di una certa patrimonializzazione e sulla base anche di un rating, perché se tu presti soldi a un soggetto che viene ritenuto poco affidabile come voto, devi accantonare di più, la sto spiegando in maniera un po' approssimativa ed estasi, ma per far capire l'importanza anche di un giudizio. Allora, con questo nuovo strumento che ha poi l'imprimatur e l'accordo di Confindustria, voi perché sarete in grado o dovreste essere in grado di valutare meglio un piccolo imprenditore che, confermo, è spesso geniale, flessibile, intuitivo, tutte le caratteristiche che fai da te, ha come limiti poca trasparenza delle volte, poca organizzazione interna, tutto un po', diciamo, fatto su base familiare, non riesce a vendersi, se mi passate il termine, peggio di altre imprese medie o grandi. Prego. Ma diciamo che intanto la trasparenza ci deve essere, perché questo è un sistema di rating che richiede all'imprenditore una disponibilità ad aprire le porte dell'azienda al valutatore, nel senso che comunque c'è un lavoro di valutazione che non è un lavoro di valutazione, come dicevamo, limitato a numeri espressi dal bilancio, ma è un criterio di valutazione che si basa anche sui criteri di controllo interno, sulla capacità di gestire i processi, e quindi ci deve essere una grande collaborazione fra banca e impresa. Tra l'altro questo è uno strumento di rating che Abbiamo visto su una cinquantina di aziende sui quali già nostri clienti, con le quali abbiamo testato, ha dato dei vantaggi significativi, però in qualche caso ha anche evidenziato delle criticità, e quindi va anche preso come uno strumento che può essere predittivo, aiutare l'imprenditore a porre in essere dei correttivi che, se non vengono posti in essere per tempo, poi si tradurranno necessariamente in risultati poi economico-finanziari, o potrebbero tradursi molto facilmente in risultati economico-finanziari non positivi. Quindi diventa anche un qualche cosa che aiuta l'impresa e inoltre valorizza estremamente quelle imprese che si metteranno in rete e quindi creeranno con i propri fornitori, clienti, comunque tutto quello che sta intorno, che serve poi per realizzare i risultati dell'impresa, creeranno una, mi passi il termine un po' forzato, un'azienda virtuale molto più grande, che farà in modo, darà opportunità alla banca di valutare in maniera positiva o più, in senso più positivo, il rating e quindi la classifica di questa azienda inserita in questo ambito, e quindi con vantaggi, allora, ripeto, nell'accesso al credito e nel costo del credito. Allora facciamo una cosa, dottor De Stasio, dopo il metro pubblicità, l'ultima domanda che per lei è molto concreta, facciamo un esempio concreto, se fossi un piccolo imprenditore, cosa vuol dire la rete? Perché vedo che ce lo chiedono, immagino, imprenditori e anche suoi colleghi di banca. Cosa vuol dire far parte di una rete di impresa, perché appunto divento un po' più apprezzato come voto quando devo andare a chiedere un credito bancario, e cosa vuol dire anche andare a vedere la mia governance, la struttura interna, cioè proprio come se fosse una simulazione, se mi passa l'esempio. Vedo un direttore di banca che oggi ha dovuto protestare, ce lo scrive al 349-238-6666, uno storico cliente che ha un mobilificio perché la direzione non lo ha autorizzato a uno sconfino per assegno di soli 4.000 euro, dice, roba da matti. Su questo vorrei anche un suo giudizio, in realtà anche poi su un po' di flessibilità che va inserita dentro il mondo bancario. Molti altri messaggi sul tema, adesso dopo il meteo li facciamo. E poi c'è un messaggio interessante, perché abbiamo sempre questi ammiratori. Ciao Leccapiedi, hai visto che Napolitano non ha firmato il DDL lavoro? Per un po' non potrete più fare i flessibili sulla pelle degli altri. Naturalmente voi restate ben attaccati alle vostre poltrone. Essere al soldo del potere fa comodo, non dite però ai vostri figli che il vostro mestiere è il giornalista, perché non è vero. Mi dispiace deluderla, mio figlio già lo sa. Meteo. Sì. 17.38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo alla borsa, che ha chiuso bene, più 1,6% Milano, 1,5% anche Parigi e quasi Francoforte. Molto bene oggi Pirelli e Azimut più 3,5 e l'automatica più 3,4, negativa Pirelli, ma viene da giornate di rialzi, meno 2%, e Campari 1,5%. Allora, vorrei chiudere il ragionamento con l'amministratore delegato di Barclays Italia, Vittorio De Stasio, su questo accordo con Confindustria Barclays per arrivare a una maggiore facilità e anche a maggiori garanzie, voti migliori per le piccole imprese quando vanno a chiedere credito in banca. Facciamo un esempio concreto, dottor De Stasio. Io sono un piccolo imprenditore in un settore che potrebbe essere del nord-est, della dorsale adriatica, del Piemonte, poco importa, da questo accordo, cioè come mi devo comportare e vengo, diciamo, a chiedere soldi e ho bisogno di soldi in banca, di una linea di credito. Ma lei prima faceva riferimento al concetto di rete. Intanto oggi c'è una legge che definisce la rete, quindi abbiamo le prime applicazioni, se non sbaglio, in Emilia-Romagna. Qualcosa si sta facendo, si stanno creando delle reti. Cioè, mettiamo che io produca piastrelle ceramica a Sassuolo, sono nella rete di impresa, che cosa, vengo da lei insomma, in questo caso non è l'amministratore delegato ma è il direttore di filiale, e cosa succede? Ma diciamo che intanto succede questo, che noi chiediamo di fare un'intervista, quindi al di là di acquisire la normale documentazione, certo, che viene richiesta per la definizione della linea di credito, i nostri colleghi sul territorio hanno avuto un training, abbiamo anche un champion nelle nostre centri imprese, che cura questo tipo di analisi, perché è un'analisi piuttosto approfondita, cioè noi dobbiamo chiedere all'imprenditore di dedicarci più tempo, ma non solo l'imprenditore, ma anche alcune figure all'interno della... Cioè, per esempio, che cosa mi chiederebbe? Chi sono, se io avessi dei figli in azienda, che cosa fanno, com'è il rapporto? Non vorrei proprio sapere... Come è strutturata l'azienda, quali sono le regole, diciamo le regole interne che definiscono i vari processi aziendali. Prendiamo per esempio, noi quello che effettuiamo è anche una valutazione per esempio della catena dei fornitori, per capire come si è posizionati verso i fornitori, se c'è qualche fornitore chiave, quali sono i rapporti che definiscono le forniture, qual è il tipo di controllo, e qui andiamo a vedere giù magari nella catena produttiva, qualche livello sotto, chi effettua questi tipi di controlli, che tipi di controlli vengono effettuati, questo per capire se c'è un controllo anche sulla qualità del prodotto e così via. Quindi cioè, si cerca di raccogliere una serie di elementi che poi vengono trasformati, ovviamente dobbiamo tutto trasformarli in numeri, in algoritmi, perché vengono messi in un sistema di calcolo che dà una definizione di quello che è il rating e quindi il peso di queste cose. E una volta scoperto il rapporto che ho con i miei figli, che magari sono in azienda, se ci sono tensioni interne con i fornitori, come è gestita la contabilità fornitori, com'è? Oltre che le variabili classiche, quindi il bilancio, utili, fatto così, certo. A questo punto, e io faccio parte della rete d'impresa di Confindustria Emilia Romagna nel distretto delle Piastrelle, che cosa mi succede a quel punto? Succede che se gli elementi valutativi, quindi sono positivi, per cui le cose funzionano bene, questo deve essere l'elemento, è sicuramente un elemento positivo che fa sì che se nella classifica noi per esempio abbiamo 21 livelli, il nostro rating va da 1 a 21, 1 è l'eccellenza assoluta e man mano che aumenta il numero la qualità e la disponibilità peggiora. Che cosa vuol dire? Noi la parte qualitativa nell'analisi che abbiamo fatto ci permette di avere una valutazione fino a 3 livelli. 3 livelli significano una variazione significativa anche del 30-40% e del livello di disponibilità di credito e del livello di tassi, perché evidentemente la remunerazione di una linea di credito è legata alla qualità espressa dal rating. Cioè, se ho un livello più basso posso avere 100.000 euro, nell'altro caso ne avrei fino a 130.000. Questo può essere un'esemplificazione, ed è un prezzo più basso. È un prezzo più basso, con un tasso del 5 in un caso e magari del 4 in un altro. Ultima domanda velocissima, perché poi devo passare alla borsa. Che cosa risponde al non specifica di che banca è, per cui non, ma a quel direttore di filiale di cui SMS al 349-238-6666, leggevo poco fa, che si è visto bloccare dalla direzione uno sconfino per assegno di 4.000 euro? Cioè, siamo a questi livelli? Chiedo. È estremamente difficile poter dare una valutazione non conoscendo il contorno, perché se i 4.000 euro si aggiungono a 250.000 euro di esposizione sconfinata e questo va ad aumentare lo sconfino, è una cosa. Se 4.000 euro sono un cliente che nei fidi, che esce di 4.000 euro, è evidente che è un'altra, però diventa difficile anche valutare azioni di altri. Direi praticamente impossibile, io non oso fare una cosa del genere. Allora, l'ultima battuta che ho per lei invece è: ma è meglio l'algoritmo o la conoscenza magari al bar, in osteria o così, tramite voci del direttore di filiale nel luogo, visto che poi l'Italia di metropoli ne ha molte poche e spesso sono città di provincia piccolissime, per giudicare se un imprenditore puoi dare soldi in più? Allora io le dico questo, sicuramente la valutazione che c'era una volta, il direttore di filiale che c'era una volta e oggi ahimè per vari motivi non è difficile trovarlo, forse non esiste più, non ho la possibilità più di farlo. Beh, li avete fatti, non voi, ma li avete anche fatti fuori quei direttori lì come mondo bancario, perché la banca universale li avete fatti girare ogni 2 anni, è difficile fare poi il maresciallo dei carabinieri se uno gira troppo, no? Certo, no, ma degli errori sono stati assolutamente commessi, però il problema è questo, quando si vanno a vedere però i numeri, le proiezioni in maniera asettica, si vede che la valutazione è fatta secondo degli algoritmi, se gli algoritmi sono corretti e soprattutto se tengono conto anche di una parte qualitativa che è importante, anche perché sennò si rischia di andare avanti guardando al passato, perché i bilanci ci rappresentano sempre qualcosa che è riferito al passato. Diciamo che gli elementi qualitativi ci devono permettere di proiettarci più verso il futuro. Chiaramente se è fatto così, probabilmente su base complessiva la valutazione è è migliore fatta attraverso i rating. Cioè, quindi, però ripeto, i rating non devono annullare il cervello delle persone. Ecco, no, siamo d'accordo, è anche appunto il rapporto umano. Mi sembra che voi state cercando di inserire dentro questa valutazione molto algoritmica con i rating degli elementi di valutazione personale, e ben vengano, perché poi insomma sta sempre un essere umano dire a quale di questi livelli appartiene. In bocca al lupo e grazie all'amministratore delegato di Barclays Italia, Vittorio De Stasio. Grazie a lei, arrivederla. Vedremo, vedo molte perplessità, ma insomma da qualche parte bisogna prendere questo problema del rapporto banche piccole imprese, perché se no non se ne esce con mondi contrapposti. Vedo che il direttore di prima, purtroppo mi ha risposto solo adesso, il fido era di 20.000 euro e c'erano solo 4.000 euro in più, non so che dirle, veramente non so che dirle. E invece vi dico che l'America sta guadagnando lo 0,70%, la borsa appunto chiude con più 1,6% di rialzo sul FTSE MIB, miglior titolo Azimut, e poi l'automatica CIR, Saipem, Buzzi, Unicem e Prismian. Di questo ci occupiamo dopo le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, e poi parleremo anche di Unicredito. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso non possiamo tornare sul tema banche e piccole imprese, abbiamo dedicato tutta l'apertura, parleremo poi di Unicredito, dei dati auto, immatricolazioni e della decisione tedesca di tassare le banche in modo che abbiano soldi in cascina se dovessero rifare gli investimenti ad altissimo rischio, in alcuni casi scriteriati, che hanno fatto fino al 2007, mentre nel frattempo i top manager dei fondi altamente speculativi guadagnano miliardi. Anche qui nessuno li sta accusando di niente, ne parleremo più avanti. Una nota di servizio: noi leggiamo tutti i messaggi, anche quelli di critica, per cui non è, se c'è qualcuno che scrive frasi di critica è giusto leggerlo, magari qualche altro ascoltatore le condivide, perché no. La borsa, nel giorno in cui Massimo Capuano ha lasciato il gruppo dopo 12 anni al vertice della borsa italiana, è arrivato Raffaele Gerusalmi nel ruolo di amministratore delegato. Devo dire, con un pizzico di autopromozione, nostro ospite Gerusalmi sin da quando esiste Radio 24 con Salvadanaio, si occupava proprio di prodotti derivati. La borsa, quella dei titoli, la commentiamo invece con Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, vabbè, qualche realizzo, ossia vendite dopo grandi rialzi, ci stava su Pirelli, meno 2, e su Ansaldo, meno 0,20. Campari continua a soffrire per il bilancio, e meno 1,4%, 7,80 euro. E ci sono anche un po' di vendite dopo il titolo che era cresciuto. Molto bene, l'automatica e Azimut, ma anche CIR. Sì, allora, per quello che riguarda Azimut, in questo caso si tratta in buona parte di un rimbalzo, visto che il titolo nelle ultime due sedute aveva perso quasi il 5%, erano state due sedute molto abbastanza negative anche rispetto all'andamento del mercato. Oggi in qualche modo ha riguadagnato almeno in parte quello che aveva perso a inizio settimana. Per quanto riguarda invece l'automatica, il titolo ha beneficiato del fatto che il governo ha riaperto la gara per il gratta e vinci, la prossima data per la presentazione è fissata a maggio. La gara era già stata aggiudicata in una prima fase all'automatica, poi c'era stata una controversia giudiziaria con l'opposizione presentata da Sisal. In realtà sembra, almeno dalle attese del mercato, che Sisal non abbia intenzione di presentarsi per questa gara su gratta e vinci, quindi diciamo che l'automatica sembra oggi un po' più vicina a vincere questa gara sul gratta e vinci. Infine, per quello che riguarda CIR, possiamo dire che il titolo beneficia dell'annuncio dell'imminente quotazione di COS. COS è la società del gruppo attiva nel settore dell'assistenza sociosanitaria. Ieri è stato depositato il filing sia presso Borsa mm-hmm. Italiana che presso Consob. È vero che CIR ha già chiarito che non venderà azioni mm-hmm. per la sua parte. Però è chiaro che avere una società quotata, insomma, un'ulteriore società quotata va a beneficio anche della stessa CIR. Allora, su Pirelli, in realtà io ho detto era bene si era mossa. C'è però anche una notizia di mercato cioè la gomma naturale, nella gomma, comunque la parte che serve a Pirelli Tire, sta salendo come tutte le materie prime. Devo dire, attenzione, che qui torneremo a parlarne magari nelle prossime sedute, nelle prossime giornate, non siamo ancora una borsa, perché sulle materie prime non c'è solo il petrolio, c'è un rialzo in generale che sta portando appunto a rischi inflazione in Cina, sono loro che ne hanno bisogno, noi magari per ora l'attività economica è ancora bassa. E Pirelli, è vero che paga il rialzo della materia prima con cui fa i pneumatici? Paga il rialzo del prezzo della gomma naturale, che ha ritoccato proprio in questi giorni i massimi storici, veleggia attorno ai 3,5 dollari al chilogrammo. Gli analisti stimano che per ogni rialzo, giusto per avere un termine di paragone, dello 0,10 centesimi di dollaro al chilo, i costi di Pirelli Tire aumentano di circa 11 milioni di euro, giusto per avere un ordine di grandezza. Il fatto che il prezzo stia aumentando pone alcuni problemi, perché è vero che Pirelli, come d'altra parte tutti i maggiori produttori di pneumatici, ha annunciato in questi mesi un rialzo dei prezzi. È anche vero che adesso il mercato inizia a domandarsi se questi rialzi siano sufficienti e se arriveranno in tempo per coprire, diciamo, il rialzo del prezzo delle materie prime. Interessante, non sapevo. Complimenti anche per averci spiegato quanto incide il prezzo della gomma naturale sul prezzo dei pneumatici. Ancora sui titoli, bene oggi tutto il settore costruzioni, Buzzi Unicem nel caso specifico più 2,95%. Sì, Buzzi Unicem oggi ha approfittato, diciamo, del rialzo che ha caratterizzato un po' tutti i titoli ciclici, visto che insomma dagli Stati Uniti sono arrivate notizie positive sia sull'indice ISM degli ordini alla produzione, sia anche su i posti di lavoro, con i sussidi della disoccupazione che sono scesi più del previsto. Tutti i titoli ciclici ne hanno beneficiato, così anche Buzzi Unicem, che ha guadagnato il 2,95%. Sempre nel settore delle costruzioni possiamo anche citare Impregilo, che ha guadagnato più 0,88% nel giorno in cui veniva quotata, il primo giorno di quotazione per la partecipata brasiliana Encorodovias, che alla Borsa di San Paolo ha aperto in rialzo dell'1%. Grazie a Guido Maurino, Radio Colle Sole 24 Ore. A questo punto buona Pasqua a te e a tutti i colleghi di Radio Colle, visto che domani le borse sono chiuse, questa è l'ultima seduta della settimana. Ne approfitto anche per augurare buona Pasqua a chi domani sarà in vacanza, appunto perché sono chiuse anche molti istituti finanziari. Noi domani saremo in diretta, do solo i migliori e i peggiori. Allora, Ceramiche Ricchetti più 14%, Bialetti più 12,5%, Filatura di Pollone più 10%, Merida S.P.A. più 9,6%, Ciccolella più 7,4%, Tiscali più 5,3%. Seat Pagine Gialle sulle risparmio meno 9,7, PMS meno 5,60, Premuda meno 2,80%. E allora, prima di arrivare adesso al GR, poi agli altri temi, immatricolazioni, Unicredito e le tasse sulle banche, dicevamo, Massimo Capuano ha lasciato la borsa italiana, la carica di amministratore delegato in borsa italiana. L'abbiamo raggiunto poco fa nel corso della conferenza stampa, insomma gli è stato chiesto in primo luogo se l'avvicinamento con Raffaele Gerusalmi, che sarà nuova D, sia stato spontaneo oppure richiesto dalla nuova borsa, visto che è stata fusa con la London Stock Exchange. Il consiglio di amministrazione di Borsa Italiana ha preso atto delle mie dimissioni. Da un punto di vista della borsa, io resterò amministratore fino al 31 luglio di quest'anno, mentre ho rilasciato tutte le deleghe operative. Il Consiglio di amministrazione di Borsa Italiana ha deliberato di delegare Raffaele Gerusalmi, quindi dandogli e conferendogli tutte le deleghe che io prima avevo come amministratore delegato di Borsa Italiana. È stata una cosa assolutamente di comune accordo, quindi una combinazione, devo dire, ideale, se di questo si può parlare, ma quindi senza nessuna tensione, contrasto, quindi è stata una combinazione di interessi e di opportunità che ha visto sposare le due esigenze, quindi senza nessun problema. Così Massimo Capuano, a questo punto ex amministratore legato della borsa italiana, giustamente mi ha fatto notare che non hanno dato i titoli bancari. Rapidamente, Popolare Milano più 2,12% oggi, Unicredit più 2,5%, Mediolanum più 2,5% anch'essa. Cosa manca? Unipol più 1,5, Mediobanca più 1,2, Monte dei Paschi più 0,90, Fondiaria più 0,70, Banco Popolare più 0,70, Ubibanca mezzo punto percentuale di rialzo. Il GR e poi gli altri temi che abbiamo annunciato. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso del consiglio di Unicredit, ma anche dei dati appena usciti, li sto leggendo insieme a voi sulle matricolazioni auto. Allora, a marzo è arrivata l'ultima spinta da quello che si vede sugli incentivi auto, più 19,6%, bene anche in Francia oggi, più 18% le matricolazioni, comunque in Italia più 19,6%, la quota del gruppo però Fiat è scesa al 31,2% rispetto al 32,6% di un anno fa, e infatti le immatricolazioni Fiat hanno fatto un più 14,8% a marzo e contro la media appunto a marzo del 19,6%. Detto questo, si diceva della riunione del comitato strategico di Unicredit. Allora, il Comitato Strategico ha confermato l'avvio di una banca unica, del progetto, scusatemi, banca unica nel 2010. Ricorderete che su questo vi era uno scontro nemmeno tanto velato tra il numero uno, Alessandro Profumo, da un lato, e le fondazioni. Nel caso specifico la Fondazione Cari Verona, ma anche la Cassa di Risparmio di Torino, erano molto scettiche su questo progetto, sull'idea appunto di una banca unica in cui perdessero ancora maggiore identità le banche, chiamiamole così, più territoriali di Unicredit. Alessandro Graziani, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, con quale accordo si è raggiunto? Se ho ben capito, ci dovrà essere questo country chairman, che vuol dire? Ma dunque, intanto l'accordo ancora non è raggiunto, nel senso che siamo arrivati per il momento al secondo passaggio, ma ne servirà ancora un altro settimana prossima, il 9 aprile, quando si riunirà ancora il comitato strategico di Unicredit per trovare la proposta definitiva da portare poi al Consiglio il 13 aprile, che dovrebbe approvare il progetto Banca Unica, come dicevi tu, che rispetto alla precedente versione immaginata dai manager di Unicredit dovrebbe prevedere questa appunto figura del country president italiano, che sarebbe una figura di diciamo un punto di riferimento per l'Italia, sia per la banca sia per la vigilanza della Banca d'Italia, che vuole avere un punto di riferimento certo solo per le operazioni italiane, sia per gli azionisti a partire dalle fondazioni, come dicevi tu, che vogliono avere un punto di riferimento certo in Italia per le operazioni della banca che riguardano i territori. E tutto questo noi non lo diciamo spesso, ma insomma dentro un gruppo è internazionale, che quindi ha una presenza ampia in Germania, in Austria, in Polonia, in Turchia, nell'Europa dell'Est, e che quindi ha un vertice guidato dall'amministratore delegato Profumo, che è impegnato strategicamente a livello globale, e quindi serve nella testa di tutti questi soggetti un punto di riferimento certo anche per l'Italia. Questo è un po' il ragionamento. E su questo le fondazioni che ho citato soprattutto si erano messe un po' di traverso. Non sono state le uniche, perché complice la campagna elettorale anche alcuni candidati, nel caso specifico il più forte era stato Luca Zaia, avevano chiesto che insomma Unicredit, la gestione Profumo, fosse più attenta al territorio. Ieri in diretta in questo programma lo stesso Luca Zaia ha specificato di non avercela assolutamente con Profumo. Il problema è generale nel rapporto tra banche grandi e realtà locali del territorio. Guardi, io fra l'altro ho molta stima del dottor Profumo e va riconosciuta la sua grande attività, la sua grande ovviamente azione per il sistema di credito italiano e quindi anche internazionale. Dico solo che vediamo con chiarezza che le banche del territorio, penso alle banche di credito cooperativo, penso alle banche popolari e anche Unicredit, piuttosto che Intesa San Paolo, insomma tutto quello che c'è sul panorama, sul mercato, sono sempre più attive, proattive, vicino ai nostri imprenditori, se hanno le radici ben profonde, ben ancorate sul territorio. Le faccio un esempio che può rappresentare una banalità, ma dà l'idea. Un benefondi per un imprenditore fatto con una telefonata a persone che conoscono l'imprenditore del territorio ha un senso. Far girare una telefonata e farla arrivare, che so, alle Isole Vergini o in qualche paradiso fiscale per avere la risposta da qualche giorno, significa sapere già che il nostro tessuto sociale, che è della piccola e media impresa, che è un tessuto sociale dove conta molto il saper fare degli imprenditori, dove comunque conta l'ingegnosità di questi personaggi, ovviamente però escono dagli schemi dei computer, dei software complessi dei multinazionali. Allora, Alessandro Graziani, è anche sulla spinta, secondo le fondazioni, ma di questa pressione politica che si cerca, il progetto iniziale di Alessandro Profumo, molto internazionale, con l'accusa era poco attento alle realtà locali, si sta leggermente modificando in questa trattativa? Ma certamente c'è una spinta forte dopo la crisi finanziaria, io direi più in generale internazionale degli ultimi due anni, a riposizionarsi sul territorio abbandonando le attività finanziarie e concentrandosi di più sul credito alle imprese, e ovviamente c'è una forte spinta anche in questa fase prima preelettorale e adesso dopo le elezioni. Mi sembra che da parte del management di Unicredit di Profumo ci sia stata una risposta conciliante, se teniamo conto del passato. In questa occasione mi sembra che ci sia stata una volontà di dialogo molto superiore rispetto a quello che abbiamo visto in anni passati, e tener conto delle esigenze, anche perché la banca obiettivamente deve riposizionarsi in Italia tenendo conto delle dimensioni che ha raggiunto nel mondo. Grazie Alessandro Graziani, scusa il gioco di parole, le informazioni sul traffico e poi sempre di banche parliamo, ma in realtà della tassazione sulle banche applicata in Germania, dicendo attenti, onde evitare che rifacciate i giochetti rischiosi che hanno portato in ginocchio il mondo, vi obblighiamo a mettere dei soldi da parte. E leggeremo anche di nuovo la classifica di quanto hanno guadagnato i top manager di fondi altamente speculativi di hedge fund, dai 4 miliardi di dollari di Tepper ai 3,3 di Soros, guadagni dell'anno scorso, ai 2,5 di Simmons, fermo restando che gli hedge fund quando guadagnano fanno guadagnare anche gli azionisti e che non hanno mai avuto aiuti di Stato, che è un'attività speculativa legale, nulla in contrario, però insomma sempre di altri stipendi si tratta. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, la legge in Germania approvata ieri che costerà alle banche tedesche 1 miliardo e 200 mila euro all'anno, non robetta, perché dice il governo di Angela Merkel, adesso per evitare che compiate le operazioni altamente rischiose che vi hanno portato in ginocchio nel 2007, 2008, 2009, siete obbligate a mettere con questa tassa più soldi da parte, in modo che eventualmente di fronte a un'altra crisi vi sarà fine in cascina. Nello stesso giorno, anzi oggi però, Commerzbank, quasi come risposta indiretta, ha detto, Commerzbank sta aiutata dallo Stato tedesco per 18 miliardi di euro, ha detto vabbè, dal 2011 in poi torneremo a dare i bonus come prima, per cui l'attuale presidente Martin Blessing potrà arrivare a incassare fino a 5 milioni di euro di bonus a breve e a lungo termine. Torna quindi il tema delle regole per la finanza e il mondo bancario. St- trovata la legge, è fatto l'inganno. E quindi l'unico modo è trattare con questa gente qua, ricondurli, fare una lunga, però questo vuol dire che è una battaglia culturale prima che politica, che durerà alcuni anni. Sì, io non la vedo, è però una cosa, non si può combattere a colpi di legge, perché se no questi distruggono il sistema economico mondiale. Beh, perché sono nichilisti. Un certo colpo l'hanno già dato, professore. Sì, ma se tu gli metti le tasse, questa gente non ha nessuna visione di lungo periodo, è solo affamata di denaro ed è pronta, dispostissima a distruggere l'economia. Quindi bisogna andarci molto cauti. I Sarkozy, i Brown, sottovalutano gli avversari che hanno davanti. Però questi sono come delle bombe atomiche potenziali. Se io ho davanti a me una bomba atomica, cerco di fare un trattato di non proliferazione. E devo negoziare con questi personaggi, anche se li disprezzo. Allora, così lo scorso 11 dicembre Giulio Sapelli, docente di storia dell'economia alla Statale di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Professor Sapelli, buonasera di nuovo. Accidenti, non sapevo che conservaste anche tutto, le mie tutto intercettazioni. Tutte fantastico. Le intercettazioni conserviamo. Allora, e lei non la stiamo celebrando, nel senso che è tuttora vivo, come sentono molto bene gli ascoltatori. Allora, si è ricreduto, visto che in realtà Angela Merkel è riuscita a imporre 1,2 miliardi di euro di tassa alle banche tedesche, che non è che sono proprio piccola roba lì dentro. E che cosa le devo dire? Le devo dire che, diciamo, in parte la risposta l'ha già data lei, dottore, quando ha annunciato la decisione che Commerzbank ha preso, no? Quindi voglio dire, nel mio tono un po' enfatico, un po' apocalittico, no? Perché questi sono tempi di cavalieri degli apocalissi. E io avevo detto proprio questo: fai la tassa e vedrai come ti risponderanno. È un po' una disfida di Canossa, no? Qui c'è lo schiaffo di Anagni, no? Insomma, io penso che questa schermaglia sia la prova che ormai si è veramente scollata l'unicità giuridica degli stati. È proprio vero che le più pessimistiche previsioni sulla divaricazione tra monopolio della legalità e invece come si potrebbe dire, diritto dei mercanti che le banche internazionali fanno e disfanno si è ormai completamente divaricato. Tu vai alla legge, ma questi rispondono in questo modo. Beh, cosa vuole che sia una tassa così per dei meccanismi economici che fanno quei profitti che lei ha ricordato? Sì, è solo una puntura di spillo. Ecco, io però una cosa volevo dire, visto che molti ascoltatori contestano il fatto che noi abbiamo letto la lista dei guadagni dei grandi top manager dei fondi speculativi. Io sono contrarissimo anch'io a queste cose, perché non bisogna mai dimenticare che sono terrorizzato da ciò che fate. Oddio. State attenti che Rathenau è stato ucciso negli anni 20. Sapelli, ho capito che perché siamo sotto quaresima, però... è stato identificato come l'uomo più... No, scusi, abbia pazienza, perché non si può fare il tiro al piccione o i safari. Se la gente guadagna tanti soldi, si deve fare un discorso politico generale, ma non si può prenderli uno per uno, perché questo è un invito in una situazione così pericolosa come quello in cui stiamo oggi, alla vendetta, non al ragionamento politico. Questo è populismo, se mi permette, ci mancherebbe. Radiofonico. Ci populismo radiofonico. Ci mancherebbe, professore. L'abbiamo invitata apposta perché sappiamo che con lei è bello dialogare. Quindi la diversità che sottolineano molti ascoltatori è che mentre i fondi altamente speculativi comunque rischiano di loro e non sono stati aiutati dai governi, invece chi, come le banche, nel caso di Commerzbank, ha ricevuto 18 miliardi di aiuti dal governo tedesco dovrebbe comportarsi in maniera più corretta. Il governo tedesco, mi scusi se interrompo, prego, come il governo americano, dovrebbe fare l'unica cosa che invece non vuole fare. Quindi c'è anche una circolarità viziosa e complice nei governi, quello che ha consigliato da mesi il vecchio Paul Volcker, vecchio presidente della Fed, che ha detto torniamo a come eravamo prima, negli anni 80, dividiamo le banche commerciali dalle banche di investimento. perché se vogliono, come giustamente ricordava lei, i fondi rischiano, ma con i soldi dei propri investitori e dei propri manager. Ma se io vado in banca e deposito i miei denari, non posso correre il rischio che poi dopo questi falliscono e mi pigliano tutto i soldi che io mi sono accumulato di una vita da piccolo risparmiatore, da povero professore. Ecco, vorrei concludere sul rapporto banca e politica, perché prima, nel ragionare sul gruppo Unicredit, abbiamo fatto sentire quanto ci ha dichiarato ieri in diretta Luca Zaia, in merito, neo presidente della Regione Veneto, in merito al rapporto con Unicredit. Ha detto: ma io stimo Profumo, il problema non è Unicredit, sono le banche sul territorio. Allora, mi sembra però che alcuni elementi politici, alcuni soggetti politici, nel caso specifico la Lega, su questo tema della banca e del territorio stiano cavalcando non poco, magari d'accordo anche con le fondazioni bancarie. Anche qui. La Lega ha giustamente difeso e valorizzato, e di questo gli va dato grandissimo merito, alle banche cooperative e alle banche popolari. Questo è sempre stato una cosa che ha distinto la Lega invece dalle forze del centro-sinistra, che volevano trasformare le banche cooperative popolari di credito cooperativo in SPA. Il prodismo è stato sconfitto grazie anche alla tenace resistenza della Lega e naturalmente dell'associazionismo popolare e cooperativo. Devo dire che la Lega ha diviso questo. Adesso che questo, voglio dire, non confondiamo le fondazioni bancarie e le grandi banche capitalistiche con banche legate al territorio, voglio dire, perché anche qui c'è differenza. Una banca territoriale, come Intesa, naturalmente molto più legata al territorio che non una banca segmentata per clientela come Unicredit, che cerca però attraverso i suoi comitati territoriali di avere contatti con il territorio. Quindi, però, storicamente la Lega ha fatto un altro discorso. Adesso il ministro Zaia ha un ruolo istituzionale, quindi fa benissimo a fare questi discorsi che fa, insomma. Per cui, insomma, lei dice restano delle differenze enormi anche nel ruolo in assoluto delle banche. Mi dia una risposta in un secondo, però lei vede, mi sembra che forse l'abbia già detta, però vorrei essere sicuro, vede un miglioramento nel tentativo di trattare con il mondo della finanza da parte dei governi, sì o no? Per cui, sì, vedo, rispetto però, a quanto sì, abbiamo all'11 dicembre del 2009 quando dunque, vedo un miglioramento nel senso che i banchieri sono sempre più tracotanti e più forti. Cioè un miglioramento per i banchieri a questo punto. Certamente, certamente, fanno ciò che gli pare. In Italia meno, perché in Italia è un sistema molto particolare che sta a sé, è come l'economia argentina, diciamo l'economia italiana, come diceva il mio vecchio amico Guido Di Tella, ministro degli esteri argentino e grande economista, sono sistemi economici su cui bisogna ancora elaborare una teoria, anche per le banche di questi due paesi. Quindi, insomma, però dal punto di vista mondiale penso che ci sia una divaricazione profonda, perché la politica non sa veramente cosa fare e l'unica cosa che deve fare non la fa, che è quella che ho ricordato. La separazione tra banche, diciamo, che sono banche retail, e banche che sono invece banche che fanno investimenti finanziari, magari altamente speculativi. Grazie e buona Pasqua anche a Giulio Sapelli. Che è chiaramente docente di storia dell'economia alla Stara di Milano. A me non resta che augurare a chi domani non sarà in ascolto buona Pasqua. Noi saremo in diretta con la borsa chiusa, ma in diretta dalle 17 alle 18.30. E quindi buona serata a tutti voi, buona Pasqua che non ci sarà. Ci risentiamo domani con gli altri dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.